Friuli nel mondo, 266esima trasmissione dedicata agli emigrati. Natale nel mondo. Cari emigrati, molti da terre vicine alla nostra Italia rientrano in queste giornate di così intimo richiamo della famiglia, ma molti purtroppo non possono ritornare per tante difficoltà. Perciò abbiamo pensato che questa trasmissione sia improntata a quella serenità familiare che tutti sentiamo nel rinnovarsi di questo avvenimento celestiale e profondamente umano. Novella Cantarutti conclude la sua prosa stupenda Scure l'usor con le poetiche parole «E tornave tegnot di Nadal a poialu talmont». E allora, in questo spirito, ascoltate, cari fratelli, musiche e motivi che non sono di qui, ma di altre regioni e di luoghi dove voi vivete e sacrificate nel lavoro le vostre interminabili giornate, nel ricordo della terra lontana e nella speranza di ritornarvi. Eccovi dunque questo canto abruzzese di una insuperabile melodia classica e italiana, canto che ha tanta affinità con quello della nostra gente e della nostra terra. Piva piva. Ed ora scendiamo ad abbracciare i nostri fratelli dell'Argentina, ascoltando questo brano di speranza, Il Gloria, tolto dalla Missa Criola. Gracias. damos gracias, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor, rey celestial. Que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Los pecados del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. De nosotros. Paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. En las alturas, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Porque tú, solo tú, porque tú, solo tú, tú solo altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Ma sentite, sentite questo canto, questa Nenia che abbiamo registrato per voi, cari amici lontani, in un indimenticabile incontro con i fratelli del Sudafrica ad alcuni chilometri da Johannesburg. È una ninna nanna, una nenia cantata mentre una giovanissima madre cullava, stringendosela al seno, la sua creatura. È una fanciulla che ancora nulla sa di cristianesimo, ma che sente ed esprime in questo suo canto tutta la poesia della natività. Eccovi Tula Baba. Beni, mata beni, cu E adesso ascoltate il notissimo canto natalizio Stille Nacht in lingua tedesca, che in friulano potremmo tradurre Gnot dal Signor. Bon Nadal e Bon Anno Duc. Avete ascoltato Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.